D'anemoni stimabili che violano il prato di scatto, staccando particole di crosta secca e frastecchi, altamente combustibili una desertica sticomitia di stinchi, dissenteri centroterra di inginocchiati, cadendo di sacrano commenti d'encomio al sismi, asfissie di sismi codardi, arti contratti con gli italiani scivolano in minacciosa bonaccia di stanco inverno. Schiattasse una volta per tutte anche questa primavera. Mi rigoverno vomici, spaventi, anse di tumulti al cardias, sospendono il respiro, cedendo al righello prospetto di un ripristino di risico ad alto rischio, allarme rosso, fusti barbuti, cannicci marci, caste scialbe al governo, scalpi di cavallette allerte, fuoco alle polveri di Casamicciola per pulizie di primavere dimentiche di fatti dinamici.